Sì, questo sì. E secondo te queste presenze, tanti fanno l'ipotesi che probabilmente forse addirittura si possano addirittura essere mimetizzati tra di noi per studiarci meglio. Tu pensi che sia possibile una cosa del genere? Sì, Franco, insomma, tutto può succedere, però io ci credo. Secondo te attraverso quelle che possono essere le persone che conosci, sì, l'argomento come viene preso? Ci sono certe persone che sono scettiche, cioè che non vedi, in certi casi le cose, se no, in queste cose, se non ti succedono personalmente, sì, uno rimane lì, perché certo sono fenomeni che sono non lo so definirli io, non... di difficile spiegazione, di difficile spiegazione, certo. Quindi giustamente io sono però convinto che ai fenomeni a cui è difficile dare una spiegazione bisognerebbe dare il beneficio del dubbio comunque. Vabbè, non è sempre ma a me che è successo, come se ti fosse successo a te, cosa diresti? Ma io sinceramente, comunque permarrebbe comunque un dubbio e non partirei per posizione presa a dire no, non ci credo. Sarei propenso ad accettare un determinato tipo di spiegazione verificandola fino in fondo, ma no, visto che c'è una gran massa di persone e anche di personalità che potrebbero studiare il fenomeno, che partono quasi come partito preso, che è impossibile, che non è auspicabile, che è assolutamente è frutto della fantasia pensare in determinate cose. No, guarda, questo non è fantasia, perché mi sarei guardata bene di telefonare, voglio dire. Vabbè, ci mancherebbe altro. No, veramente. Però io stessa dico che magari, siccome io ci credo, sì, nella religione, magari dico che sia stato lo spirito, che perché siccome era appena morto mio marito, ho detto magari che sia magari andato, non lo so. Io ti ringrazio moltissimo per averci chiamato. Grazie a te, Franco, e grazie mille del signore lì che spiega queste cose. Sì, un ringraziamento anche ad Alfredo Lissoni. Grazie. Ecco, pronto. Ciao, buonasera. A risentirci. Bene Alfredo, io naturalmente parlo via etere, perché con lui so che ci ascolta, parlo via etere. Ci ha chiamato anche Giulia, Giulia che aveva manifestato già tempo fa di un fatto apparso su Rai 2 al tempo della guerra del Golfo. E naturalmente Alfredo chiedeva, adesso io parlo, sembrerò un UFO perché io parlo con l'etere. Io chiedo ad Alfredo di poter spiegare, non dico subito, ma magari nel corso anche delle prossime nostri appuntamenti, se hai avuto notizie su quel fatto appunto successo intorno al periodo della guerra del Golfo, che Rai 2 mandò in onda un servizio, la storia di quel naufrago che è stato, attraverso cui il recupero di una telecamera venuta su una barca, si vede la storia di questo naufrago che deperisce sempre di più, non avendo viveri, non avendo acqua, e improvvisamente, e si vedono le fasi in cui lui invece si riprende vigore, riprende forza, e all'improvviso si vede lui che si allontana verso una luce misteriosa. Il tutto questo è mandato in onda un servizio su Rai 2. Vede, chiediamo tramite Giulia se ha saputo qualche cosa. Non prendetemi per un UFO se parlo da solo, tutto qui, io parlo ad Alfredo. Pronto? Sì. Sono un UFO? Ah, allora, tocca a me? Sì. Ecco, allora, ciao, senti. Ciao. Io sono Paola, vorrei dirti così una curiosità infantile, se vogliamo, però, ecco, dunque, io mi occupo, sì, di parapsicologia sotto gli aspetti, mi piace tantissimo. Sì. E ho sognato un mese fa, da quando ho modo di sentire appunto queste trasmissioni sull'ufologia, sì, perché sì, ho sempre sentito, sì, però c'è questo ragazzo qua che è stupendo nelle espressioni, così, molto... mi piace tantissimo seguirlo, perché... È molto bravo Alfredo, è molto bravo, sì. Anche perché, non lo so, cioè, ecco, allora, io ho sognato, mai successo in vita mia, però ho sognato di trovarmi nel mio cortile di casa, sì, e tutti gli abitanti della zona avevano il naso all'insù e anche le braccia protese verso l'alto, e dicevano: oh, ma la zia Rosa non c'è più, è salita in cielo con un soffio. Ecco, io esco dalla casa, guardo in su anch'io e dico: ma cosa è successo? È successo che la zia Rosa è mia, cioè sì, io ho una zia che si chiama Rosa e ha 84 anni, sì, è salita in cielo proprio in un soffio, e io tranquilla, molto tranquilla, a voce alta, ho detto: ma e niente, non preoccupatevi, sono stati gli UFO a portarlo su, e adesso senz'altro farà il giro, poi lo riporteranno giù. Ecco, questo è quello che ho sognato da quando seguo l'ufologia. Pensa, non mi è mai successo, anzi, magari sotto sotto ho pensato anche a un viaggio astrale, ma questo l'ho pensato in un secondo tempo, perché appunto ti dicevo che mi occupo di parapsicologia. Ecco, allora dico io, allora adesso io comincio a fare confusione tra la parapsicologia e l'ufologia. Cioè, ecco, questa zia è salita in cielo, non lo so, sono, per me, cioè io ho detto voce alta: non preoccupatevi, perché sono stati gli UFO a portarla su, la riporteranno giù. Ecco, e questo niente, non ho altro da aggiungere, vorrei salutarvi, siete tutti carini, e soprattutto vorrei salutare Roberto. Che speriamo che intervenga anche lui su questo tema. Ecco, interessantissimo. Senti Paola, prima di lasciarti scappare, tu credi nella possibilità che possano esserci altre forme di vita a parte la nostra? No, io direi di no. Tu non sei... No, una che si occupa di parapsicologia, probabilmente, insomma, pensare a un altro mondo come lo intendete voi, no, non è possibile. Tu dici di no. No, io non dico niente, cioè non sono in grado di affermare... Ma guarda, noi abbiamo avuto nei nostri studi il signor Sironi, sì, che è un grande conoscitore del fenomeno, sì, parapsicologico, e lui è convinto comunque che ci possa essere altre forme di vita a parte la nostra. Quindi non è detto che chi si occupa di parapsicologia debba essere per forza scettico. No, non siamo scettici proprio. Ad ogni modo vorrei dire a Lissoni di spiegare meglio, sì, magari in una trasmissione con più calma. Sì, sì, cioè non adesso obbligarlo poverino al telefono. Adesso comunque, sì, ecco, vorrei che spiegasse, perché non ho capito bene, anzi non ho capito bene, avrei anche capito bene, ma nel dubbio vorrei un'altra chiarificazione. Benissimo. Quando parla delle apparizioni, ecco, vorrei che fosse più chiaro. Che portasse più esempi? Sì, più esempi, no, anche più chiaro, più esplicito, nel dire l'UFO potrebbe. No, il potrebbe, il condizionale non mi sta bene, vorrei che fosse certo. Ecco, questa certezza lui, adesso non è che prendo le parti di Alfredo, questa certezza lui la menziona soltanto quando ci sono delle prove concrete, quando ancora non sono nello stadio della sicurezza, usa il condizionale, ed è anche giusto, perché il fenomeno ufologico è sempre stato bersagliato moltissimo dalla stampa, dalla fantascienza, da tante cose che hanno sempre messo un po' sul ridicolo il fenomeno ufologico, e quindi loro vanno molto con i piedi di piombo. Quando senti il condizionale, perché non hanno prove tali da poter dire siamo sicuri, è così. Allora la vita, anche quella nascosta, è tutta condizionata. Secondo me sì. È condizionale. Sì, io sono convintissimo. Purtroppo è vero, insomma, così. Grazie. Grazie a te Paolo. Grazie. Ciao e a risentirci. Bene, noi continuiamo, abbiamo una breve pausa commerciale e ritorniamo subito da voi, naturalmente, con il tema di oggi. Parliamo di ufologia, parliamo di queste problematiche, vorremmo appunto i pareri da parte dei nostri ascoltatori. Se avete anche delle domande da fare, Alfredo Lissone ci sta ascoltando, nel corso dei nostri appuntamenti del mercoledì poi pian pianino risponderà a tutti. Vi ricordo i nostri due numeri telefonici, sono il 433833 e il 468209 di Milano. bene, abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto? Ciao. Ah, sono io, pronto. Sì. Ciao Franco. Sì, no, niente, io volevo fare un piccolo intervento, ti avevo chiamato l'altro giorno in redazione, ti ricordi? Sì. Per appunto, così io ti avevo un attimo provocato dicendoti qua in negozio su due marziani, due extraterrestri. Seriamente te l'avevo detto, cercando di, credevo che si potesse parlare con questo giovanotto che spiega queste cose. Sì. E poi niente, volevo articolare questo fatto in un modo, cioè cercando di portare delle prove che erano chiaramente false da parte ecco, mia, no? Mario, Alfredo ci sta ascoltando, ah. Quindi puoi parlare come se stessi parlando. No, ma è chiaro che non è che Alfredo io volessi una risposta al mio quesito, volevo solamente portare acqua, io siccome ci credo, sì. Ma ci credo in quanto ci credo, a persona, e non è che ho bisogno delle prove per crederci, perché volevo prima di tutto ricordare ad Alfredo che nel 1960 giù di lì gli americani il ministro della difesa aveva dato incarico ad una società di studiare il fenomeno per 10 anni e poi era uscito con un libro che io ho letto qualcosa su selezione, e il problema che lui diceva che ci sono adesso delle persone che sotto ipnosi raccontano di aver visto determinate cose, a quei tempi queste testimonianze erano state portate così a mente lucida senza ricorrere all'ipnosi. Due marito e moglie scienziati in pensione raccontavano di essere stati prelevati, essere stati 15-20 giorni in questa astronave. Ora, io la mia diciamo testimonianza è solamente questa, cioè io voglio dire, le cicatrici per esempio, anche le cicatrici non sono una prova, perché la scienza dimostra, anche quando ci sono delle stimmate su certe persone, che le cose possono avvenire per determinate cose. E questa, anche questa smentirebbe una prova che porterebbe Alfredo, perché non c'entra niente le cicatrici su un corpo quando uno spiega di aver visto, perché anche lì, siccome non sappiamo tutto di tutto, anche la scienza ha dei limiti, e uno quando si ferma ai limiti o ci crede o non ci crede. Cioè, non è che la testimonianza di una persona o di un'altra possa valere più o meno, capisci? Non è diciamo, verificando la prova che si giustifica l'esistenza degli extraterrestri se uno ci crede, perché il discorso l'avete un attimo accennato prima, si innesta con la religione, si innesta con chi crede nei defunti, che ci siano in giro, cioè è ampio, è troppo articolato per specificarlo così, gli UFO finisce lì. Bisognerebbe, ecco, da parte mia, come ti ripeto, cercare di non tanto portare testimonianze, ma recepire testimonianze dalla gente, in modo tale da poter capire se effettivamente il problema può essere, ma diciamo così, non verificabile, ma non sfruttato da parte di giornali specializzati. E qui per me c'è sopra cose che a me non piacciono, ma proprio per, così come tutte le cose, le parascienze, chiamiamole così, un nome volgare, così possono essere anche accettate senza bisogno che te le spieghi una persona con tanto di cattedra, poi magari questo non sa niente di preciso. Cioè non mi interessa se me lo viene a spiegare un professore, se uno non crede nei defunti, nel fatto che l'anima possa essere in giro con testimonianze, io ne ho delle mie, come la signora ha portato quella di quel raggio di calore che è entrato nella casa, sì. E lei dice non so che cosa poteva essere, poi dopo lei ha spiegato che lei dice io sono credente, mio marito era morto da poco e questo poteva essere, ecco. Non sempre è così dividibile il fatto di dire cosa potrebbe essere stato, capisci? Perché io voglio portare questa testimonianza. Sì. Lasciamo passare la sigla. Lasciamo passare la sigla, perché non capisco in questo caso cosa si possa centrare, che far intervenire la SIP è una cosa che. Mario, non stiamo parlando di politica. No, ma c'è anch'io l'antipatia così. Ma non c'entra niente. La persona che telefona, io penso che l'aveva già individuata. Ah. Di conseguenza. È un UFO. Sono antipatico. È un UFO che non vuole che si parli di noi. Una delle cose che ho scritto a cuore, che ci dicono 5 cose per cui vale la pena vivere, ho scritto spegnere il televisore quando ci sono determinate persone, cioè togliere la possibilità di parlare a uno che mi dà fastidio. Ora, se io do fastidio a questa persona, fa bene a telefonare, perché lui sfoga una sua reazione che ha bisogno di fare. Io voglio dire, poverino, va bene, può succedere anche a me. Comunque, io volevo un attimo concludere dicendo che al di là del discorso, poi tu mi hai detto che Alfredo è molto giovane, non so, c'ha 22, 23 anni. Ne ha qualcosina di più, però non molti di ecco, più. Ecco, al di là di qualsiasi testimonianza, le testimonianze, perché io, il mio paradosso che erano qua in Via Larga con me nel mio negozio, sì. Perché non dovrà essere creduto un fatto del genere? Cioè, capisci? Perché alle 4 del pomeriggio non si crede e a un libro scritto di uno che dice che l'ha raccontato alle 5 di mattina nel Vietnam deve essere creduto? Se uno ci crede, deve crederci indipendentemente, anche perché tu dicevi giustamente c'è qualcuno che crede che sono come noi. Mm-hmm. È la nostra somiglianza. A che? Come fai a dire che non è vero? Se uno ci crede. Ora, piuttosto, come ti ripeto, di testimonianze con prove, siccome le prove non sono mai... Sai, gli uffici segreti, come si dice, il ministro della difesa dell'Unione Sovietica, chiaramente hanno delle cose che non ti faranno mai vedere perché sono segreti militari. Però le prove che abbiamo noi comuni mortali sono prove che possono essere sconfessate da qualsiasi scienziato, perché sai, ti portano esempi scientifici che tu poi non sei in grado di dimostrare la differenza. Mm. E più di questo... Cioè, mi piacerebbe sapere così dalla gente se ci credono in quanto a tale, non tanto perché c'è uno che ti viene a spiegare che ci sono delle prove, perché le prove non servono a niente. Ciao. Ho capito. Ciao, Mario, grazie. Ciao. E questa volta arriva tardi, sollecito nella SIP, arriva troppo in ritardo. Allora, i nostri due numeri telefonici sono il 433-833 e il 468-209 di Milano. Alfredo ci sta ascoltando, quindi tutte queste cose sarà materiale buono per le nostre trasmissioni del mercoledì, questo è importante sottolinearlo. Tra le altre cose, io vi ricordo domani il nostro appuntamento fisso del mercoledì tra le 17 e le ore 18 con Alfredo nei nostri studi. Vedremo se faremo già un accenno oppure no, oppure magari rimanderemo per visionare naturalmente tutto il materiale che emergerà quest'oggi nel nostro appuntamento. Ci saranno tanti di quegli spunti che sicuramente porteremo anche nel corso delle prossime nostre trasmissioni. Come si suol dire in questi casi, più veloce della luce? Ti interessa l'argomento, eh? Mi sto seguendo molto attentamente. Ti interessa l'argomento? Sì, mi interessa. Allora? Vedete, vabbè, avrete capito che sono Alfredo. Mm. Darò delle risposte molto molto veloci, visto che ci sono stati quattro interventi. Allora, il primo per quanto riguarda la signora che ha perso il marito, sì, anche inizialmente ho pensato a due tipi di possibili spiegazioni. Della nazionale scientifica, il fulmine globulare, che è un fulmine molto particolare, piccolotto, che non brucia, che generalmente entra nelle case perché viene attirato dall'elettricità statica che sviluppano i nostri apparecchi elettrici. Altra possibile spiegazione potrebbe essere invece proprio un fenomeno di tipo spiritico. Ora, io da tempo non mi occupo più di spiritismo e di parapsicologia, anche perché è un campo molto doloroso, perché c'entra, diciamo così, in contatto con persone che hanno perduto persone care. Quindi diciamo che è un campo che non tratto. Per cui, in mancanza di dati più precisi, lascio aperte queste due possibilità, una come al solito razionale, scientifica, cartesiana, e una invece diciamo, di più metafisica. Per quanto riguarda la signora Giulia e il famoso naufrago della guerra del Golfo, posso dirvi che i giornali non hanno riportato la notizia, ma ne ha parlato effettivamente il telegiornale. Ora, io sono riuscito a rintracciare una persona che ha abbastanza dati in merito, perché questa storia è stata poi pubblicata sotto forma di fumetto dalla casa Bonelli con il Martin Mister, era un episodio che si intitolava Necronomicon, e hanno messo appunto come fumetto questo episodio. Ora, io il 22 di dicembre vi porterò in redazione Alfredo Castelli, che è lo sceneggiatore, per cui chiederemo a lui maggiori dettagli di questo caso, ci sono comunque dei precedenti. Quindi Giulia, devi ascoltarci il 22 di dicembre per avere notizie. Per quanto riguarda Paola, la parapsicologia e le apparizioni, sì, lì probabilmente nelle prossime puntate vedremo allora di dare dei dati più certi. Io naturalmente però mi mantengo sempre così cauto, proprio col condizionale, come giustamente dicevi tu. Questo perché in ogni caso, prima di dare verità preconfezionate, bisogna avere tutte le prove decisive. A questo punto mi riaggancio a Mario, che ha telefonato per ultimo. Sì, ma la prova definitiva, chiara, che mette a tacere tutti, è quello scettico più incallito, è ovvio, non c'è. ma comunque se c'è non l'hanno gli ufologi. Non saremmo qui a parlarne quest'oggi se così fosse. Ci sono tante prove indiziarie, tante prove che spingono comunque più direzioni, perché effettivamente non esiste solo il campo dell'ufologia, parecchie volte si va a confinare nella parapsicologia, nello spiritismo, nella religione. Il problema è che noi ufologi siamo costretti a restringere enormemente il campo, perché altrimenti la mole di documentazione è talmente ma talmente vasta che non riusciamo proprio a starci dietro. E la persona diceva che Mario, diceva che le prove di fatto non servono a niente, che comunque se uno ci crede e qualsiasi testimonianza diciamo abbastanza fine a se stessa. E questo indubbiamente, perché non esiste il testimone perfetto, chiunque può sbagliarsi, sì. Può essere il fisico che parla dall'alto della sua cattedra, come può essere, che so, un umile contadino. Però esistono tutta una serie di testimonianze comuni, sì. Ed è queste che noi studiamo, ma noi le studiamo sempre in relazione a delle prove fisiche, a delle bruciature a terra, è qualcosa che noi possiamo quindi studiare da un punto di vista più scientifico e buttare sul tavolo della scienza. Quindi le testimonianze sono sempre relative, sono le tracce fisiche che ci interessano di più. Ecco, quando Mario diceva che le bruciature non sono una prova confutabile. Precisiamo, le bruciature sul corpo no, indubbiamente, anche perché lui ha parlato del caso delle stimmate ed è vero, addirittura ci sono persone che sono in grado di prodursi le stimmate per via paranormale, non perché vedano la Madonna o altro, per cui è possibile farlo così volendo. Non mi riferisco tanto alle bruciature sul corpo o a queste ferite, perché anche lui è sempre relativo. Mi riferisco alle bruciature sul terreno, quindi cerchi anche di 10 metri di diametro, dove il terreno sia però radioattivo, dove ci siano degli effetti fisici sulle cose e magari anche sulle persone. Quindi usciranno tra poco dei risultati di un'inchiesta che è stata fatta da un gruppo di colleghi in collaborazione con dei chimici su un atterraggio UFO che si è verificato a Ciano, si è verificato appunto in quel di Napoli sull'asfalto, l'asfalto è rimasto bruciato, ci sono tre grossi cerchi equidistanti, radioattivi, e lì sono state fatte proprio tutte le analisi scientifiche. Questo noi lo sbattiamo sul tavolo della scienza, lo diamo in mano agli scienziati scettici. Sì. Naturalmente il fatto che ci siano delle tracce, delle prove di questo tipo, per uno scettico incaprito non prova niente, cioè la prova perfetta sarebbe avere un alieno vivo con tanto di disco volante. Beh, logico. Alfredo, abbiamo una domanda in diretta. Benissimo. Allora, tu resta lì che facciamo entrare anche l'altra persona. Perfetto. Allora, vediamo un po' se riusciamo. Là. Pronto? Buonasera, sono Antonio. Ciao Antonio. Buonasera, io innanzitutto volevo dire che, come si chiama il signor Critico? Chi è? È Mario. D'accordo. Ah, Mario. Ma d'accordo con niente, almeno sugli spiriti, se non crede mai niente. Non è d'accordo neanche su lui. Ma però questo, no, sul lupo dice che, vabbè, questa è una cosa sua, di carattere, penso. Allora, che cosa voleva chiedere? Io volevo chiedere al tecnico, no? Sì, Alfredo. Mi spiegasse un po', come cavolo è che fanno questi esseri che sono lontani migliaia di miliardi di chilometri di anni luce? Come è possibile noi che riusciamo a capire che questi arrivano qua? Come fanno a arrivare? Che siamo a miliardi di chilometri e quando 10.000, 100.000 anni luce, la velocità della luce è 300.000 chilometri secondo. Alfredo? Sì, ci sono, perfetto. Allora, volevo dire, no, scusa un attimo. Allora, sì, va bene. Ecco, allora, se questo è vero che è dimostrabile, no, che è 300.000 km al secondo la luce. Sì. Allora, se questo è, quanti chilometri che sono in un anno luce? Se la luce 400.000, vuol dire sì. 300.000 volte, io vado da Milano a Palinuro e torno indietro. Capito? Se da Milano a Palinuro ci fosse quanti chilometri ci sono? 1000 chilometri? Sì. Vuol dire che io in un secondo, faccio 300.000 volte da Milano a Palinuro, ma vi rendete conto? Allora, se questo è un secondo a piedi, e poi la galassia più vicina nostra sono qualcosa come non so quanti milioni di anni luce, è vero o non è vero, dottore? Voglio dire, lei mi può dire quanti chilometri è la galassia più vicina nostra, alla nostra? Quanti milioni di chilometri è? Alfredo, hai allora sì, ci sono, dunque, allora, una delle zone, diciamo così, in cui si presume che ci sia vita extraterrestre è a 14,6 anni luce da noi, che vuol dire si tratta di una distanza enorme, noi non saremo mai in grado di arrivare lì. Fuori dubbio questo, ed è una domanda... Ma non era quello? Esatto, questa è una domanda giustissima, perché di fatto è un po' il dubbio che hanno tutti i ricercatori. È stata fatta un'ipotesi, siamo sempre nel campo delle ipotesi, che di fatto i dischi volanti non superino la velocità della luce, perché la velocità della luce è un limite fisico invalicabile, non è possibile. Ma scusa dottore, ma come ti ha portato la denaro questo mezzo per misurare? Come? Questo mezzo per misurare la velocità della luce, è tutto l'universo è valido. Sì, no, ma noi non sosteniamo che i dischi volanti superino la velocità della luce, perché questo è impossibile, perché il disco volante si deformerebbe, qualsiasi oggetto che supera questa velocità cambia forma. Per cui sarebbe... Per quello che chiedevo. Come? Per quello che chiedevo. Sì, esatto. L'ipotesi che viene fatta è che invece ci siano dei varchi nello spazio, nell'universo, una sorta di buchi che alcuni hanno identificato nel condotto dei buchi neri, perché sono state fatte delle analisi a Princeton. Ma dove... scusa un attimo, dottore, ma anche lo stesso che nel buco nero non è mica quello che attrae tutto dentro di sé, non lascia uscire nemmeno la luce, come quando uscire gli oggetti dal buco nero. No, ma non sto dicendo che passa attraverso il buco nero, attenzione, sto parlando del canale che c'è vicino al buco nero, perché il buco nero è questa forma compattissima che attrae tutto, ma accanto ai buchi neri esiste un canale ed è proprio attraverso questo condotto che si suppone che possano passare questi dischi volanti. La supposizione, certo, è ovvio che sono supposizione. E andate provando questi? No, anche perché se fossimo in grado di realizzarlo ci saremmo noi nello spazio, questa è soltanto un'ipotesi, ovvio. Cioè il problema di fondo è questo, che il disco volante di per sé non potrebbe mai funzionare perché ha tutta una serie di caratteristiche che vanno contro la nostra logica, la nostra scienza, contro il senso comune, non si riesce a capire come facciano ad arrivare, che tipo di carburante venga utilizzato. Nonostante tutto però sono oramai 40 anni, ma in realtà sono molti di più, che le persone continuano a vedere questi oggetti, le testimonianze sono sempre simili, questi oggetti sono stati registrati persino dai radar, probabilmente si ricorderà l'anno scorso. Scusate, dottore, se è vero quello che lei dice che dimostrate che queste persone vedono, no? Sì. E che vedono, io non metto in dubbio queste cose, ognuno vede quello che vuole, io intanto vedo male il burro, non vuol dire niente. Sì. Questo è ognuno di noi vede quello che vuole, no? Ora, adesso scherzo un poco, no? Ripeto. Voglio dire, sì. Se non è dimostrato che niente può uscire e entrare a queste velocità, sì. Lei mi ha detto l'odore, no? Sì, ma infatti, ma non è una questione di velocità. Cioè, non sto parlando di tempo. Perché loro ci vogliono meglio grande per arrivare, come fanno campantando quelli? Oh. Ecco, la famosa ipotesi è proprio questa, che tramite questi varchi non, le distanze vengano accorciate, per cui non ci sono questi milioni di anni, queste migliaia e migliaia di chilometri, anzi di anni luce da percorrere, ma semmai distanze infinitamente brevi. Questa è un'ipotesi che è stata portata avanti da prima dalla fantascienza, dopodiché si è visto che proprio a livello scientifico, e se lei prende l'ultimo libro di Hawkins, dal Big Bang ai buchi neri, c'è un breve accenno a questa cosa. Ah, andate, troppo difficile, non ci ho capito molto. Sì, è complicato come libro, però in questo libro Hawkins in pratica ammette, riconosce, perché è riconosciuto, che esistono delle deformazioni nell'universo. Cioè l'universo su larga scala è omogeneo, su piccola scala, cioè nel dettaglio, ci sono tutta una serie di strane deformazioni, tra cui proprio questi che sembrerebbero essere dei varchi attraverso i quali siamo sempre nel campo delle ipotesi, si potrebbe passare. Dottore, ma scusate, quanti dati tecnici che lei ci sta dando possono essere giusti? Io non discuto perché non mi ignoranza, non posso contrastare. Okay. Io quello che contratto umanamente io che ho portato dei dati scientifici, no? Della velocità, quindi nel senso che ci vorrebbe. Sì. No? Io mi contento di questo. Sì. Allora io dico, ma ammesso che sia vero quello che dite voi che vi interessate di queste cose e che sostenete che questi arrivano, fanno le luci, fanno le cose, no? Sì. Ma questo, ma perché non si manifesta bene? Perché non andrò qua bene, tranquilli? Se hanno questo grande queste presenze tecnologiche, ma che c'è da paura di che cosa? Di tante busce? Di che cosa ci sta dando? Di che cosa deve avere paura? Tanto rotto, ma a chi siamo? Se questi hanno queste tecnologie, non dovrebbero aver paura di niente. Hanno paura di Antonio, hanno paura di Andreotti. No, ma loro si possono annichilire tutto un momento all'altro, no? Allora, che venissero qua a portare dei messaggi, vanno su, ci importano qualcosa che si capisce, tanto loro capiscono tutte le lingue, sanno tutto quanto, riescono a comunicare. È vero che non è vero, se uno riesce a vedere qual è la nostra atmosfera, sicuramente riesce a comunicare. Sì. Parlerà siciliano, parlerà calabrese, parlerà malanese, della bergamasca, ma sempre può parlare tutto. Qualsiasi dialetto lingue, vero questo o no? Alfredo, Alfredo. persona che stanno a questa possibilità. Cosa c'è di contrario a questo fatto? Alfredo. Benissimo, allora io a questo punto faccio io una domanda al nostro amico che sta telefonando. Sì. Immagini una formazione di bici volanti che compare così improvvisamente dal nulla su piazza San Pietro nel giorno in cui ci sono migliaia e migliaia di persone che stanno pregando. Quale sarebbe la reazione di... Allora, questo... Ma forse che fosse la volta buona, però... No, non dico che sarebbe la volta buona, dico che succederebbe quello che si è verificato. Ma io, scusi, mi riferivo allo spavento di quelli che sono a piazza San Pietro. Ah, sì, sì, indubbiamente uno spavento tremendo, esatto, come già successo parecchie volte. Cioè, di fatto, negli ultimi 40 anni queste apparizioni sono aumentate. Non tutte queste apparizioni sono buone, ma molte sì, sembrano essere proprio buone. Negli ultimi 40 anni la mentalità delle persone è cambiata, mentre inizialmente c'era una paura grossissima, per cui chi vedeva qualcosa di strano pensava di aver visto, che sono il diavolo, un'arma segreta dei russi, eccetera, eccetera, e scappava. Adesso invece la gente ha una disposizione differente, sono stati fatti dei sondaggi, la gente non ha più paura... Scusi, ma allora non c'è nemmeno più, perché questi se c'è la planeta intera che stanno noi che non ci spaventiamo più perché già siamo cresciuti un po' d'antena, non c'è nemmeno più per manifestarsi bene, tranquillamente. Bisogna vedere in che modo ragionano loro, perché il problema è che noi stiamo facendo dei ragionamenti in un'ottica terrestre. Questi direi che gradualmente si stanno abituando alla loro presenza, così come ha fatto quella famosa ricercatrice, la Diane Fossey, con i gorilla, insomma. Quando lei si è avvicinata ai gorilla, non l'ha fatto tutto a un botto, l'ha fatto molto lentamente finché questi l'hanno accettato. Ma qua si dice che sono da 44 che si girano in giro, Eh sì, e vabbè, ma i tempi, se questi viaggiano nello spazio, magari hanno una concezione diversa del tempo. E io ho saputo da uno che si interessa di queste cose, che già ci sono dei quadri, quasi in mezzo ci sono delle statue, delle cose che richiamano questi razzi, queste cose, già, sì, dell'antichità. Sì, ma nell'antichità si parla di questa famosa età dell'oro, in cui questi esseri, queste divinità, erano con l'uomo, istruivano l'uomo e davano delle informazioni. Ma da l'uomo, caro dottor, qua, se andiamo nella filosofia dell'uomo, che l'uomo si è sempre immaginato d'oro. Sono alcuni che sostengono che Dio l'ha creato l'uomo, perché se non ci fosse stato l'uomo non ci sarebbe neppure Dio. Se la vita nella terra fosse rimasta le lavo del dinosauro, lei però dice che il dinosauro chi è che doveva adorare qua? Sì, a certo. E ci fossero solo stati la quantità di tigri, ma chi adoravano? Quando poi nei milioni e milioni di anni dell'evoluzione, come dice Darwin anche, perché io queste cose le leggo. Giusto, va bene. Ecco, allora, se arriviamo a dire, adesso io dico una cosa che è contrario a molti, però io dico, esprimo il mio pensiero, non voglio ferire nessuno. Povero Alfredo, che bolletta! Eppure io però la bolletta, mica nessuno me la paga a me. Lo so, povere bollette vostre. Ma niente, ma l'interesse della gente non deve andare. Giusto. È vero? È sì, giusto. Allora volevo dire, se noi, a come ipotesi, ci siamo pure inventati Dio, perché come ho detto, come paradosso, se ci fossero i dinosauri, Dio vorrebbe dire che non esiste, non questo senso. Sì. Allora, se possiamo anche inventare che vediamo a Maria Vergine, che vediamo la Madonna Pellegrina, anche vediamo pure Giupo. Adesso le prove che voi tanto ci portate, io non lo so, gli scortatori, non lo so, adesso tutto si può vedere. La condizione mia è che se questi veramente, come voi dite, danno questa possibilità e ci volano due volte sulla gamba, non riesco a capire come mai non ci comunicano la loro desiderata, e questo è il punto che io non riesco a capire. Allora, risposta velocissima, perché evidentemente noi non siamo ancora pronti. A capire? Detto così, per sommigliare. Ma allora, non vuole che loro non sappiano che abbiamo 14.000 tonnellate di tritolo sulla testa, ognuno di noi. Loro hanno tutta la bomba, l'unica arma grossa, se non potremmo avere, che fa rispavento a loro, perché la portiamo con i razzi nell'universo, magari scompagniamo tanti satelliti. Sì. Possiamo spostare lì, e lavorare, passare l'anca passiva. Lasciamo passare la SIP un attimo, io vi ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Ambrosiana Milano e vi ricordo i numeri telefonici che sono il 433833 e il 468209 di Milano. Abbiamo in linea Alfredo Lizzoni perché oggi parliamo di ufologia, chiediamo ai nostri ascoltatori le loro esperienze e soprattutto cosa pensano di questa materia. Abbiamo in linea anche un altro ascoltatore che sta facendo delle domande ad Alfredo, si chiama Antonio. Io ho già parlato della mia bomba futura anche in questo senso, però niente, adesso ho parlato perché poi giustamente la città non è che se ne volete mi cremata a loro, poi ne parliamo dopo. Io alla volta ma ti do un video che questa radio sia con interessare con le azioniste, perché attira la gente a parlare, va bene, ma è anche giusto. E se non fanno il numero 20, noi destinati siamo a tirare fuori il ci devono spaventare a vedere uno che li vede e altri che non li vede. E questo che non capisco. Che ragione c'è per nascondersi ancora? Se hanno paura di noi ci possono fulminare quando vogliono. Se non hanno paura che vogliono farci del bene, magari vengono a farci del bene. E si presentano anche se sono brutti. Madonna, ma di brutti e brutti ce ne sono, di belli. Cos'è che può misurare il bello e il brutto? Chi lo sa? Ti ringrazio Antonio. Saluti a tutti. Ciao, grazie. Alfredo, abbiamo... disturbano te Alfredo. Rispondi pure. Noi eravamo andati nel corso delle nostre trasmissioni, intanto il libro è il 468209 di Milano, e noi eravamo nel corso delle nostre trasmissioni, abbiamo cercato di dare una risposta della loro volontà di presentarsi e abbiamo dato anche delle spiegazioni. Esattamente. E la persona, Antonio, giustamente diceva, ma perché non si mostrano, visto che bene o male adesso siamo preparati? Sì, molti di noi senz'altro saranno preparati, molti altri no. Personalmente ritengo che i tempi siano ancora un po' prematuri. Ora non so, Frati Indovino è convinto che l'anno prossimo ci sarà un atterraggio UFO clamoroso, l'ha scritto nel suo calendario. Ora io non sono un profeta, quindi non posso sapere quando costoro decideranno di mostrarsi. Indubbiamente sto notando una cosa, che le apparizioni di UFO stanno diventando estremamente frequenti in questi ultimi anni. Mentre prima c'era qualche cosa che girava sulle nostre teste, adesso, dopo i casi della Russia, Voronezh, dopo i casi del Belgio, abbiamo avuto, famoso caso del Belgio, in 2 mesi 300 segnalazioni di UFO, cioè il fenomeno si sta intensificando moltissimo. Se questo voglia rappresentare una volontà di qualcuno che cerca di mostrarsi definitivamente, non lo so, me lo posso soltanto augurare. Bene, diciamo che comunque hai cominciato già a dare tante risposte, hai messo tanta carne sul fuoco. E dovremo svilupparle durante le prossime trasmissioni, sennò qui non ce la faremo. Comunque io ti dico una cosa, fino al termine del nostro appuntamento di oggi col filo diretto con i nostri amici, la trasmissione è stata registrata, quindi avrai modo poi con calma di riascoltare tutto quello che i nostri amici dicono e diranno, per essere anche molto più preciso nel dare un certo tipo di risposta. Esatto, perché sono costretto a farlo molto di fretta. Sì, anche perché il tuo portafoglio piange. No, non è perché, no, per lasciare spazio ad altre persone. Giustamente. Che vogliono telefonare. Senz'altro. Bene. Ciao Alfredo, grazie mille. Un saluto e saluto tutti. Ciao Alfredo. Ciao. Andiamo con la pubblicità che siamo in un ritardo abissale. Le linee sono a vostra disposizione. 433-833-468-209 di Milano. Rimani sintonizzato. Tra pochi spot, la musica continua. Siamo tornati nuovamente in onda e chi abbiamo sulle nostre linee? Pronto? Pronto, sono Angelo Franco. Ciao Angelo, io bene. Ascolta, ho seguito un po' i discorsi che sono stati fatti, le varie telefonate, no? Sì. Ma, vorrei fare alcune considerazioni più o meno un po' su alcuni punti che sono stati detti, no? Dimmi. Non ti sento, riesco più a sentire. No, ti sento bene. Sento benissimo. Ma volevo dire, per prima cosa, si è parlato lì della possibilità di altra vita nello spazio, eccetera, no? Sì. Adesso io vorrei fare qualche considerazione, diciamo, astronomica. L'astronomo Stephen Doyle ha fatto dei calcoli statistici e risulta quindi che, da questi calcoli, che ci sarebbero almeno 640 milioni di pianeti, possibilmente in questo, soltanto nella nostra galassia, no? 640 potenziali pianeti, no? Abitabili. Adesso se facciamo se vogliamo fare una riduzione, no? Ancora di più, sì. Che so, uno su 10 di questi 640 milioni, verrebbero, diciamo, 64 milioni di possibili pianeti abitabili, no? Questa è una considerazione, diciamo, astronomica. Stiamo parlando soltanto della nostra galassia. Sì. Sono già in corso da parecchio tempo vari progetti per la ricerca di altri segnali intelligenti extraterrestri, il progetto SETI, eccetera. Ultimamente si sono riuniti gli astronomi in Argentina qualche mese fa per dare una specie di decalogo nel caso che venisse eventualmente un contatto con altre intelligenti extraterrestri, per cui diciamo che la possibilità che esistano altri intelligenti da fuori è valutata seriamente, no, anche dalla scienza ufficiale, per cui non mi sembra il caso di continuare da parte di diverse persone continuare a dubitare su questa possibilità, che noi dobbiamo valutarla in maniera seria. Sì, sono pienamente d'accordo. Ecco, questo è il primo punto. Secondo punto, c'è stata quella discussione riguardo il fatto perché loro non si mostrano, eccetera. Ma Qui dobbiamo fare una considerazione, diciamo, socio-psicologica, socio-culturale. Se noi ammettiamo che ci sono altre intelligenze più evolute di migliaia di anni, no? O milioni di anni, che vengono qua, ma qui non ci si rende conto di che impatto sarebbe, no, un eventuale incontro di queste intelligenze. Tutti i piani, no? Sociale, economico, politico, scientifico, culturale, l'impatto sarebbe a dir poco allucinante. Assolutamente devastante, perché non potremmo far fronte alla loro realtà superiore. Cioè, tutti i nostri valori, le nostre idee, i nostri concetti tecnologici, scientifici, di fronte a questa realtà, di fronte alla realtà aliena, no? Questa realtà superiore, crollerebbero di colpo da un giorno all'altro. Questo è il motivo che probabilmente impedisce allo stato attuale un eventuale incontro con queste intelligenze. Insomma, qui stiamo facendo delle valutazioni così puramente umane, no? Ma dobbiamo considerare questa cosa. Se si pensa che quello che è successo nel 1500, quando i conquistadores, dove ho già parlato anche in radio, arrivavano lì nel nuovo mondo e questi non venivano da un altro pianeta, ma soltanto dall'altra parte dell'Atlantico, cosa successe? Che la loro sola presenza provocò il completo crollo di tutti quegli imperi che esistevano da centinaia di anni nel continente sudamericano. L'impero Inca, l'impero Azteca, eccetera, crollarono come pere da un giorno all'altro, no? E queste sono considerazioni da fare. Quindi si può ben immaginare cosa potrebbe succedere se venisse veramente un incontro con altri intelligenti, no? Che vengono da altri sistemi solari. Sarebbe, non potremmo far fronte alla loro superiore cultura. Sarebbe uno shock culturale inimmaginabile, e questo purtroppo molti non riescono a comprendere. È una valutazione che bisogna tenere in conto. Sì. Cosa dici? Sì. Su questo sono pienamente d'accordo, e probabilmente anche i politici dei diversi stati, certo, hanno questa paura. Quindi loro si sono resi conto fin dal principio cosa implicava questa presenza UFO. Perché pone delle conseguenze inimmaginabili sotto tutti gli aspetti, sociale, politico, scientifico, economico, ma sotto tutti gli aspetti. E non è così semplice dire, no, perché se ci sono, perché non si mostrano, e qui e là, ma si stanno già mostrando, no, diciamo, da quarantenne a questa parte, però non nella maniera che noi vorremmo, che ci aspetteremmo, ma alla loro maniera, diciamo. Noi non possiamo pretendere che altri si adeguino ai nostri parametri di idee, di concetti, eccetera. È assurdo questo. Noi dobbiamo essere più, pensare effettivamente che se ci sono altri intelligenti, noi non possiamo pretendere che loro scendano a nostro livello. Semmai dovremmo fare uno sforzo noi, arrivare da loro, se mai ci riusciremo, ecco. Sì. E altre considerazioni riguardo al fatto della possibilità che altre intelligenze possano venire qua, ma io faccio un piccolo esempio, no? Tanto per dirne una, no? E nel secolo scorso, per andare dalla costa atlantica a quella del Pacifico, le carovane, no, parlo degli Stati Uniti, ci mettevano mesi e mesi. Oggi con un jumbo jet, diciamo con un aereo di linea, per andare dalla costa dell'Atlantica a quella del Pacifico bastano poche ore. Perciò è tutta questione di mezzi, di tecnologia. Se qualcuno avesse parlato nel secolo scorso che un giorno sarebbe bastato, che so, poche ore per andare dall'Atlantico al Pacifico, non so come l'avrebbero considerato. Cioè, è tutta una questione di possibilità tecnologiche, di possibilità scientifiche. Poi io non credo personalmente che la scienza attuale abbia raggiunto il massimo della conoscenza, perché la visione dell'universo che ci potrà essere nel XXI secolo, nel XXII secolo, sempre che ci arriveremo, potrà essere totalmente diversa. Questo lo diceva già Allen Hynek, che era un astronomo ed era uno dei principali ufologi del mondo, è morto qualche anno fa. E questo è quello che diceva lui. Cioè, noi non dobbiamo pensare che le nostre conoscenze scientifiche non abbiano raggiunto il massimo possibile. Probabilmente siamo soltanto al principio. Arriva una domanda, Angelo. Ma perché, chiedono perché dovrebbe rappresentare un problema rivelarsi a noi, visto che loro, essendo di una cultura e di un mondo superiore al nostro, non dovrebbe succedere nulla. Se dovesse succedere qualche cosa, loro con le loro possibilità, con i loro poteri, potrebbero addirittura ipnotizzarci. No, ma non è così semplice. È quello che ho cercato di fare, diciamo, è una forma di coercizione. Loro non possono credere, sono così evoluti, così superiori, non possono usare un simile metodo per coercire gli esseri umani. Noi praticamente dobbiamo maturare e comprendere questa realtà qui. Il giorno in cui abbiamo compreso la loro esistenza, che esistono eccetera, e allora può darsi che verrà anche il giorno in cui ci sarà l'incontro con queste intelligenze. Ma d'altra parte noi, cioè loro non hanno niente da guadagnare da noi, no? E noi non possiamo offrire nulla a loro, sul piano tecnologico, scientifico, eccetera, eccetera, non abbiamo nulla da dare. Semmai sarebbero loro che potrebbero darci tutto, no? Però, ma qui è sempre lo discorso che ho fatto prima, cioè, se venisse questo incontro con loro, con questa realtà superiore, qui crolla tutto, non potremmo far fronte alla situazione. Questa è la realtà, dobbiamo aspettare, sì, che la situazione si evolga nel migliore dei modi, insomma, d'altra parte poi c'è un'altra considerazione da fare, no? Un'altra cosa, Angelo, direi di mettere, sì, l'accento, attenzione a non lasciarsi trarre in inganno dalla fantascienza, infatti, ed è quello che ho cercato, io l'ho detto molte altre volte, no? Infatti, Angelo, è quello che ho cercato di spiegare al nostro amico al telefono, non è così semplice, arrivano questi, ipnotizzano, infatti non è un fumetto di fantascienza, no, non è così semplice entrare in incontro con altri intelligenti, sarebbe la cosa più inimmaginabile di tutta la storia umana. Adesso io, cioè, non voglio stare lì a divulgare, perché poi magari tolgo praticamente lo spazio dello spettatore, però volevo leggervi soltanto una breve cosa, no? Sì. Che era una dichiarazione che aveva fatto il capitano Edward Rupert, che era stato per diversi anni il capo del progetto Blue Book per le indagini sugli UFO, no? Che poi si era dimesso perché per dissenti con gli altri vertici. Sì. Ora, lui diceva, aveva fatto questa dichiarazione: alla fine del luglio del 1947 l'AFO decretò il più assoluto top secret sugli UFO. I giornalisti che volevano indagare sull'argomento ricevevano lo stesso trattamento che riceverebbero oggi indagando sul numero di bombe all'idrogeno che vengono preparate negli arsenali atomici degli Stati Uniti. Nessuno fu tenuto al corrente delle indagini sugli UFO, tranne pochissimi ufficiali di grado superiore del Pentagono. Sì. All'inizio dell'era degli UFO la situazione era considerata grave, anzi gravissima. Le autorità volevano avere subito la risposta: gli UFO sono terrestri o extraterrestri? E le indagini del servizio segreto dell'ADI, il servizio informazioni dell'USA, divennero tanto più intense quanto più gli UFO venivano visti vicini al centro prove Moore dell'Air Force, al poligono sperimentale di Waisan e gli stabilimenti dove si preparavano le bombe atomiche. Nessuno dell'Air Force era qualificato a rilasciare la risposta finale sul problema degli UFO. Rilasciare la risposta finale richiederebbe una grave decisione, probabilmente una delle più gravi decisioni dall'inizio della storia dell'uomo, e sottolineo queste ultime parole, no? Una cosa del genere richiederebbe praticamente una presa di posizione molto molto molto grave, no? Rivelare, diciamo, questa realtà, no? All'umanità, no? E non è così semplice. Non è proprio così semplice. Sì, sono pienamente d'accordo. Niente, adesso noi qui possiamo anche fare discussioni polemiche all'infinito, no? Però la realtà è quella, la realtà è questa. Cioè, le autorità, il potere su questo pianeta non hanno informato la popolazione del pianeta di questa realtà fin dal principio. Quindi chi è che lo fa? Cioè, gli ufologi, non so, con quello che ottengono, i tempi non sono ancora maturi perché avvenga questa, diciamo, questa accettazione a livello planetario. Perfetto. Ecco, ma ti lascio perché voglio lasciare altri interventi eventualmente. Va bene, d'accordo. Ti ringrazio, Angelo. Ecco, ti saluto. Ciao, buona serata. Grazie, arrivederci. Ciao. Andiamo sull'altra linea, qui cominciano a farmi i cenni con la pubblicità, insomma abbiate pazienza, le telefonate sono tante. Pronto? Pronto? Sì? Ciao Franco, sono Davide. Ciao Davide, libero il 468-209 di Milano. Allora Davide. Ma io direi di rimanere nel campo degli oggetti volanti non identificati, senza aggiungere la vita. Cioè che ci siano oggetti volanti non identificabili, e questo è fino al tempo degli egizi. Sì. Ammettendo la vita, si direbbe come mai fin dal tempo degli egizi e venendo avanti, sono 2000 anni, non si sono mai fatti vedere, ma perché sono forti? Ma anche un uomo è forte, quando prende un infante in braccio adatta la sua forza alla debolezza. Quindi io escluderei la vita fino a prove vere e concrete. Quindi queste non a gente che vede i gnomi che ballano o dischi o segni di dischi volanti o Davide, cose o Davide, così. Davide, secondo te allora tutte le la possibilità di queste astronavi cosa sarebbero? Dei robot? Ma Io li continuerei a chiamare oggetti volanti non identificati. Cioè, se noi escludiamo la vita, non possono essere che dei robot. Gli oggetti volanti. Sono definirli. Sono delle macchine senza anima, sono praticamente dei robot. Sì, ma non c'è nessuno che ha detto che ha visto un oggetto volante e lo ha identificato. Rimangono sempre inidentificabili. Non è che uno ha visto un oggetto volante e dice era un aereo C1-125, oppure era questo è giustissimo. Comunque resta il fatto che possono essere degli oggetti che in altri pianeti, se loro scendono qua, anche loro dicono, i nostri aerei per loro sono degli oggetti volanti non identificati. Si tratta di stabilire due cose. Cioè, che ci siano degli oggetti volanti che non si sanno cosa sono, questo è fin dal tempo degli Egizi. Sì. Questo è vero. Sì. Ma poi passare da questa affermazione a dire ma ci sono anche delle persone che vivono su altri pianeti, questa è un'altra cosa. E vabbè, ma Davide, è una logica evoluzione. Io ci andrei un po' piano, perché si domanderebbe come mai queste persone non si sono mai fatte vedere in 2000 anni, non in 2 secoli, né 2000 anni. C'è un'evoluzione di storia, di religioni, di uomini, di persone, quindi non si sono mai fatti vedere. Quindi fra il dire esistono degli esseri viventi, io ci andrei cauti, direi sempre che è un oggetto volante non identificato. Però ci sono tante persone che dicono di aver visto delle forme di vita che non sono consone al nostro essere umano. Ma io andrei ad agio, ne ho lette di queste cose, che ha visto gnomi, che ha visto cose, che ha visto qui, che ha visto là, insomma, sono cose un po' da prendere un po' con le pinze. No, su questo siamo pienamente d'accordo, però ciò non esclude. Io non dico che esisto, però non lo escludo neanche. C'è la possibilità. Una possibilità può esserci, che poi magari uno veda lucciole per lanterne, d'accordissimo con te, però con questo io non escludo a priori che non possa assolutamente essere, anche perché non capisco il senso di questi oggetti che vengono sulla Terra a fare che cosa. Sono migliaia e migliaia di oggetti nell'universo che sono naturali. Sì. Poi abbiamo anche migliaia e migliaia di oggetti che sono non naturali, ma costruiti dall'uomo, che ci girano sopra la testa, che c'è la spazzatura nel cielo. Io ti dico una cosa, ci sono troppe coincidenze strane comunque. Poi c'è un altro fatto, se vogliamo prenderlo anche dal punto di vista religioso, noi sappiamo che qui la Chiesa attacca gli ufologi e Gesù è morto una volta sola. Una volta sola, dice, egli ha offerto se stesso, una volta sola, lo ripete 3-4 volte nell'epistola. Quindi se ci fossero altri abitanti in altri pianeti, altri esseri viventi, avrebbe dovuto morire più volte per redimere questa gente, almeno che esistano altri esseri viventi in questi pianeti che sono angeli. Allora qui cambia completamente il discorso. Quindi questo qui è un punto fermo, è un punto base a me sorge anche spontanea un'altra domanda: ma noi come facciamo a sapere se il Cristo non sia effettivamente morto altre volte per altre popolazioni? Ma perché è detto, è la sua parola, allora o si mette in dubbio la sua parola che io adesso non voglio fare preferisco mettere in dubbio la parola degli ufologi che la parola del Messia. Ma Davide, attenzione, io non voglio mettere in dubbio la Bibbia, però la Bibbia in tutti questi secoli è stato dimostrato come ci siano delle incongruenze all'interno della Bibbia, ci siano delle cose che sono state poi anche spiegate all'interno della Bibbia. Qui è chiaro, non è tema ad altre interpretazioni. Se è morto una volta solo non può essere morto 3 volte. E può anche essere morto anche per loro. Che sia ben morto anche per loro, allora uno si domanderebbe, ma come mai che in 2000 anni queste persone da redimere non sono ancora tornate sulla Terra per cercare il messaggio di redenzione? Ma mi sembra un po' una cosa, siamo quasi alla fine del mondo, qui tra un po' ci piove addosso una bomba atomica che ti spazza tutti e quelli ancora non sono venuti a percepire il messaggio di redenzione. È una cosa un po' così, cioè per dire che esistono delle cose inidentificabili, questa è una cosa vera, però da qui al passare a un balzo dove ci sono degli esseri viventi mi sembra una cosa un po', tanto più appunto che c'è questo punto fermo. È morto una volta sola, si è sacrificato una volta sola, ha dato se stesso una volta sola, è detto continuamente, non è...